Allora, duetti di triglie, scampi, vongole. No, vongole no, cozze. Cozze e patate. L'aglio lo tengo, il prezzemolo pure. E poi voglio un bacio. Un bacio dolce sulle guance. E dopo voglio pane. Pane giallo però, non bianco, bianco no. Ah, un bacio! Ma un bacio già l'ho detto. Un bacio dolce sulle mani, sulla fronte. Ma già l'ho detto. I polpi! È per l'insalata, per fare l'insalata. E non me lo posso dimenticare, l'insalata è importante. Le ostriche! 5 ne voglio, col limone. Ma il limone lo tengo. E quello lo tengo, lo teniamo. Un bacio, una cozza, uno scampo, un'ostrica. Un bacio, una cozza, uno scampo, un'ostrica. Mamma, pesce, baci e poi che altro serve? Ma. Ma. Ma. Ma voglio sapere quando il papà di papà stava in America. A fare che cosa? In America, Steva. Sì, ma voglio sapere quando il papà di papà stava in America. A fare che cosa? A lavorare in America. Sì, ma a fare che cosa? A suonare il piano forte. Oh, ma proprio il piano, quello che si suonava una volta con la manovella. E si era fatto i soldi, quindi. La moneta. In quantità si era fatto? Ma poi li perdette. Che chi lo teneva? Teneva una saccuta. Sacco si dice, ma sacco. E chi lo non sacco teneva? Coi soldi dentro, tanti. In quantità di moneta. In quantità si era fatto suonando, allora. Una saccuta. Sacco si dice in italiano, ma sacco. E che la saccuta poi, o papà e patata, la teneva sempre addosso, sulle spalle. Poi un giorno, una volta, attraversando un fiume, per aiutare a attraversare una vecchietta, sto sacco che facette? Gli scappò. Caret. E se n'è andato lungo il fiume. Un sacco pieno di moneta. Beh, meno male che c'aveva un altro libretto di moneta in tasca, perché quelli del fiume, appunto, sono andati persi. Che persi? Quelli furono rubati. Eh beh, giustamente, ma erano rimasti là, chi l'ha trovati se l'è presi. Rubati. Presi. Rubati. Insomma, un sacco tanto, 64.000 lire. Ma poi chi lo sa all'epoca com'era questo sacco, grande, piccolo, S'usavano sti bigliettoni. E le 10.000 di prima erano così, erano grandissime, che non ci stavano in tasca, ci voleva un sacco per tenerle. Erano grandissime. Erano enormi, perciò dicevo un sacco. Non sa che soldi. Beh, comunque, sto sacco si perdette, sì. Ma gli altri soldi che s'era fatto, ce l'aveva nel libretto. E s'era comprato le proprietà. Tante proprietà. E perché sto nonno, evidentemente, aveva fatto fortuna lì all'epoca. Pure che s'era perso il sacco, aveva fatto fortuna. A sonnare il piano forte in America si fa fortuna, con o senza sacco. Mamma, ma sto nonno in America che andava suonando? Tutti ti dicono ricordati, com'era, ricorda. Ricordati com'era, ricordati. Ricordati chi era, chi è stato, chi è. Dove, perché, con chi, l'America. Com'era st'America? Che facevi in st'America? Ma che sognavi in st'America? Come se ricordare da vecchio è facile. A 20 anni è facile. Ti metti lì e ricordi. E se ricordi una cosa non buona, dici che fa? Tengo tempo da addrizzare, una vita, il tempo. Se qualcosa è andato storto, gli dai un colpo e cambia. Cambia la vita che tieni davanti. Tanta, lunga, ancora da fare. Ma da vecchia è nata cosa. Da vecchia ricordare i ricordi devono essere buoni. Che li puoi sopportare. Che le cose che hai fatto non hai tempo da addrizzare. E siccome catenimmo tutti ste cose storte che non si possono addrizzare, allora quando uno ti dice ricordami, tu gli ha da rispondere. O faccio, sì, ma piano, lento, che a ricordare. A non essere buono a ricordare, uno si schiatta la testa e finisce malamente. A ricordare da vecchi si finisce malamente. Tu non ci crederai, ma io in America ci andai pure che in Italia mangiare cesteva. Ascolta questa cosa, cesteva veramente, se credi al contrario sbagli. Mangiare cesteva, bere cesteva. Ci potevamo sedere a tavola e mangiare per tutta una vita. Magari non mangiare speciale, ma mai da morire di fame, no. Ma se uno pensa solo a mangiare, se uno pensa solo di stare a tavola a mangiare, ma dimmi, ma che va vivendo a fare? Le mucche mangiano e stanno contente. Le pecore mangiano e s'addormono. Ma già i cani, no? I cani quelli mangiano eppure vogliono uscire a pisciare. E seppure un cane tiene ad uscire e pisciare, figuriamoci noi. A noi ci piace mangiare, sì, ma ci piace pure di più tanto altro che solo mangiare e pisciare. O primo, a partire per l'America, un giorno fu Patata. Lui in America e io e te qua. 4 anni. Ma ci scrivevamo, lui in America e io qua. Ma due che s'amano lontani non ci possono stare. Due che s'amano a stare lontani s'ammazzano. Allora venete il giorno che io feci 2 conti, 3 valigie, presi te e simmo partite. 12 giorni di nave. Mica sai, con tante cose in coppa sta nave. Si chiamava Ancona la nave. E ci stevano i bagni, ci stevano i saloni per conversare per la terza classe. Così dicevano i cartelli, potete stare a conversare voi della terza. Ma noi a conversare mica tanto, che già ci stavamo tutti già sempre addosso. Tanti eravamo, 1000, tutti addosso, schiacciati. E conversare niente in tasta stanza che feteva. Ma ci steva bel tempo. All'inizio sì, un bello sole. Poi un giorno, mentre che eravamo a mangiare tranquilli in coperta, si sentono ste voci. Fuoco! Fuoco! Ci sta il fuoco! E noi tutti siamo diventati bianchi. Che ci steva solo cielo e acqua intorno. E dappertutto sentivi piangere. Chi getta roba in mare, chi s'azzecca i figli in braccio, chi canta storie alla Madonna, chi in ginocchio ad abbracciare sta fine che ci steva dando nostro Signore. E io niente facevo. Ma vedi, niente proprio. In un angolo stevo io e te a fare niente, a vedere sto fuoco salire, sta gente impazzire. E noi niente, a guardare, tu zitta e io a cantare. Cantare sì, ma zitta. E poi non era niente, era un fuoco da niente che per un attimo ci steva e poi niente. Finì bene, st'America doveva arrivare e st'America arrivò. Ci sta un'isola a New York, dove tutti gli italiani rispondevano alle domande. Chi sei? Come ti chiami? Da dove vieni? Chi ha pagato il tuo biglietto? Sei mai stato matto? In galera ci sei stato? Dove vai? Tieni un lavoro? Qualcuno che ti aspetta? Ma ritmo! Lo tengo, che mi aspetta? 4 anni, lo tengo, ci deve stare. Sta lì, là dietro. E l'ha già visto, Patata, in fondo a sta stanza. A kissing room, diceva l'americano. La stanza dei baci, dove io a Patata tutto me lo baciai. Che erano 4 anni d'astinenza d'amore. Carissimi genitori. Cara figlia. Carissimi genitori. Cara figlia. Carissimi genitori. Cara figlia, esco in città, ma poco, qui è grande assai, e tutto sembra uguale, sembra, e tengo paura di perdermi, tengo, ma giù di morale non ci vado, no, perché sai che faccio? Per non perdermi a New York. Il gesso. Che lo tengo per segnare stoffe che cucio? Esco di casa, giro per dove devo andare, volto per la prima strada e segno col gesso. Giro ancora e segno, sempre dritto e segno, a sinistra e segno, a destra e segno. Tengo la forza che nei gessi. E la gente che a me vede segna strade, ponti, case, non capisce. Ma a me non me ne importa, con sto gesso in tala borsa sto tranquilla. A New York, se giri con un gesso in tala borsa, è un buon andare. Carissimi genitori, la scuola va bene. Facciamo di conto, italiano, storia, geografia. È tanto lontana st'America. Cara figlia, vai con rispetto a scuola, studia e impegna, che Patata lavora così tu puoi studiare. Ma pure non ti preoccupare, senti un peso per questo, studia e basta. Ma studio, ci stanno cose che mi piacciono e altre no, ma studio, normale. Quando venite in Italia a trovarmi? Cara figlia, ancora non molto e torniamo. Carissimi genitori, ancora non molto, sì, ma quando? Cara figlia, è il tempo di trovare i soldi e torniamo. Carissimi genitori, ancora non molto, sì, ma quando? Cara figlia, è il tempo che papà s'organizza il lavoro e torniamo. Carissimi genitori, ma perché non tornate mai? Pure io ho già lasciato i genitori miei in Italia. Qualche anno e poi torno, Qualche anno e poi vengo, intanto scrivo. E chi l'ha visti più? Tu dovevi studiare. E in Italia dovevi studiare, io lì t'ho mandata. Qualche anno e poi torno, Qualche anno e poi vengo. Ma ci stevo a giradischi. In America sì, ho giradischi. E ad ascoltarla questa musica in America era come se ci stevi tu, mamma mia, tutti rintasto giradischi, tutti a girare in coppa a sto piatto. Ma poi ci steva sta ragazza che abitava a fianco a noi. Che io la vedevo sempre che steva triste. Uscivo a buttare la monnezza e steva triste. Uscivo e steva triste. E steva sempre triste. Insomma, un giorno glielo chiesi. Signor, ma com'è che siete sempre triste? E giradischi, signor. Io sta musica di questo giradischi vostro non la posso proprio sopportare. A me questa musica triste di questo giradischi vostro mi mette a pucondria. Allora ho capito. Con giradischi in America non serve. e ti spezza il fiato. Ti spezza il fiato, non gira dischi in America. Sapere, quando tu stavi in America, a lavorare sì, ma che altro ancora a fare? Niente, a lavorare, a fare che, il resto niente, a lavorare, a fare che. Ma voglio sapere, in America, a lavorare sì, a mangiare sì, anche a mangiare, ma in America, facevate qualcosa in America? A mangiare, a lavorare, poi che altro tieni a fare? Uno il tempo, sempre uno. Ma voglio sapere, al cinema, in America c'era il cinema? Certo che ci stava il cinema in America il cinema è cinema. E voi lo vedevate la sera, la domenica, un giorno il cinema? No, mai, niente. Ma mai proprio non è vero, in America uno al cinema ci va. A tanti anni che stavamo in America, due volte al cinema, il resto niente. E tu e papà il cinema perché mai? Perché non ci interessava proprio per niente, perché? Ma tutti hanno l'interesse per il cinema. E tutti, noi no, non eravamo gente che ci interessava niente, i divertimenti, niente. Ah, ma voglio sapere, ma è vero che in America il cinema lo vedevi in macchina? In macchina, a tenerla la macchina, vedevi in macchina, E Via col vento neanche l'hai visto? No, chillo no, un film e cavalli, chillo sì una volta. Ma perché il cinema mai, tu e papà? Ma non ci piaceva pagare per vedere figure e non capire niente, figure e niente. L'inglese a capirlo niente? Niente di niente. Ma niente di niente poi perché? Niente, poco, minimo pena difesa, poco e niente. A difendere cosa da chi? Non spendere più di quello che avevamo da spendere. E poi a che? A capire che uno ti sta parlando, ma in verità vuole solo ridere di te. Ma qualche cosa tu e papà andavate facendo in America? Ogni tanto. Girando, ma poco, eh. Ma girando dove? Girando po' quartiere. E il quartiere quale? Broccoli. Broccoli? Broccoli. Ma tu a sforzarti Brooklyn non riesci a dirlo? Sì, a sforzarmi, ma non voglio. E altri italiani come te però li vedevi? Sì, capitava, ogni tanto capitava, quasi mai. Ma mai mai? Capitava, capitava. E quando? E ogni tanto. Quando? Matrimoni, funerali, quando a uno gli mancava la salute. Si teneva la polmonite e si andava a trovarlo, se stava bene si stava a casa. E feste? Festeggiavate? Quello sì, ma poco e niente. E poco e niente cosa? Ballare. Ballavate? Ballavamo, sì, ma poco. Ma a poco quanto? E poco, una o due volte all'anno. Ma se anche una o due volte vi divertivate, ma tu e papà, ma che andavate vivendo a fare in America? A vivere, vivere per vivere, ma non nello sprechio noi altri, come questi americani. Sì, vabbè. E quella una o due volte, che andavate ballando? Ballare. E ballare di che? Ballare. Di lavoro. Ho preso tutto. Pesci, baci. Ma, mi vieni a prendere tu, no? Forse ti serve qualcosa. Mi sembra di ricordare che ti piacciono cozze e patate, ma le tengo le patate. Devo mettere in ordine questa stanza, ma non troppo, eh. La lascio come se devo tornare, come se uno che entra sa dire subito quello che stavo facendo prima di uscire. E dove lo metto tutto questo pesce? Ci vogliono delle borse frigo. E non una, due almeno ce ne vogliono. Ma le potrò portare le borse frigo? Ma devo potere. Ma speriamo che non la tiriamo troppo per le lunghe, eh? A tirare troppo tutto viene a noia, o no? Cara mamma, come stai? Io sto bene, ma tengo un cruccio forte. È forte tanto che non riesco a toglierlo a costo di niente. E il cruccio è quello che segue. Sei sicura, sei, che questo mestiere che papà fa in America è un mestiere buono, normale, buono? Io non so mai come parlare di sto lavoro di papà, non lo so proprio. Che dico ai compagni d'Italia? Ma che dico? Mi devo o non mi devo vergognare? Cara figlia, manco un momento devi scherzare. Manco un momento per niente proprio. O mestiere patate tuo, lo mestiere migliore che c'è, vattela a segnare e non devi scherzare mai, mai su questo. Qui ci sono persone che stanno chiuse in grandi casermoni al buio a fare ferro, ferraglia, a diventare matti. Persone che vanno costruendo strade, ponti, case e faticano forte, tanto, sempre sporchi, sempre a cantare canzoni ai pazzi quando hanno a tirare su blocchi e cemento e ferro. Patate è fortunato. Patate va libero in mezza via, sotto cielo, a vendere bellezze. Chi lo il figurinaio fa? Corri a scuola, diccelo, che tu non hai niente da vergognare, niente, anzi, ridi. Cachil va vendendo bellezze che tanti invidiano. Sai, mo che va vendendo in sti giorni? Una bellezza più bellezza che c'è. Che tutti la guardano e le invidiano, che tutti la vogliono, e Patata guadagna bene vendendo sta bellezza. Corri a scuola, diccelo, ridendo. Che se prima veniva solo San Marco e Venezia, a Torre Cascante e Pisa, o Colosseo e Roma, mo vende una cosa speciale. Una cosa che va commuovendo tutti quanti, diccelo, che una cosa così gli americani non l'hanno vista mai, diccelo. Va vendendo. La pietà di Michelangelo. Vedessi quanto è bella sta statuetta, sta pietà, piccola, bianca, tagliata veramente bene. E ci sta sta madre con sto figlio morto in braccio, e la madre è la Madonna, e il figlio è Gesù. E la gente si spalanca la bocca, si spalanca, che sta mamma con sto figlio vanno facendo furore in America, che sta America sta piegata d'ammirazione e rispetto a Patata per sto lavoro che fa e sta bellezza, che in sta America non sanno niente, manco dove sa comincia a fare una bellezza così. Ma se devi dire una cosa brutta, veramente brutta, ma brutta proprio assai, che ci stava in America, che dici? Una cosa brutta proprio. Il caffè. Oh, stu caffè americano, pieno d'acqua, noi altri ci sporcava le budella. Ma mi sono sposata. Hai fatto le foto? Sì, stavo bene, ma ero bella assai, eh? Bella assai quanto? Bella assai tanto o bella assai poco? Bella da impazzire. E lui com'è? Bello che impazzisco. Ma che faccio ora per fare la moglie? Piccole regole. Segna e conserva. Che una femmina lavori va pure bene, va anche, ma alla fine tiene a pensarci lui. Lui ti deve pulire la bocca se ti sporchi, lui ti deve baciare se piangi. La spesa la fa tu che conosci la moneta, gli uomini stanno in aria, stanno. Queste sono le regole, lo resto niente. Lo resto è solo aria capuzza. E a letto che faccio? Fai. Eh sì, ma faccio come? Fai avventurosa. Ma che dici, ma avventurosa come? Piccole regole, segna e conserva. A letto ti devi levare tutto. Se ti capita di tenere qualcosa, la gonna tieni, la calza mai, la calza spegne tutto. E muoviti molto nel mentre, che qualcosa poi ci esce sempre. E se non esce, fai come se. Fai i versi come se. Fai a, non risparmia volume, Lucca, che quello funziona sempre. Cara ma, a me non mi interessa quello che dici. Cara figlia, perché? Cara ma, perché sì? Cara figlia, perché sì, perché? Cara ma, perché se a dirle certe cose tu stai lì e io sono qui. Ma che ci stai a fare a vivere da madre? Cara figlia, tutto per i soldi. Cara ma, sti soldi odorano di poco e niente. Comunque non ne hai da tornare. E comunque non ne ho da venire. Come prima. Punto e a capo. L'altro giorno. Capata andava vendendo statue al mercato. Era sabato, era. Uno lo prende e gli fa: «Italiano, ti piacciono i maccaroni?» E Patata non capisce, dice la verità, dice: «Sì che mi piacciono», dice Patata. «Ti piacciono tanto, vero?» E Patata che non capisce dice: «Assai», dice Patata. «E la mattina li mangi?» «E la mattina no, la sera li mangio», dice Patata che non capisce. «E il mandolino lo suoni?» «No», dice Patata. «E perché no?» «È perché non lo conosco, mandolino». «E perché non lo conosci?» «Tutti lo conoscono in Italia». «E tutti no, io no». «Ma in Italia tutti suonate?» «No, non tutti, anzi, pochi». «Certo che suoni». «No, e qualcosa fai?» «Allora canti». «No, io no, io non canto, ma in Italia tutti cantano». «E io no, cantare non mi piace». «E invece canti». «Non so cantare». «Per forza sai cantare, tutti cantano in Italia, non hanno niente da fare e cantano. Canta per noi». «Sto a lavorare qua, non a cantare». «Canta, che noi siamo stanchi e ci vogliamo divertire. Tu canti e noi balliamo, tutti gli italiani sanno intrattenere come i cani da compagnia». «Lascia che lavoro, non voglio cantare, lasciami stare». «Canta, non canto, canta, t'aiuto io». «Cantati come il sugo dei maccheroni vi cade sulla bocca come il sangue, canta che questo a voi vi piace, canta per noi, negro! Sono bianco, sei negro, canta per noi come cantano i tuoi amici negri, non canto, canta!» «A me mi piace sporcarmi di pomodoro perché ci sono abituato al sangue che cola sulla faccia». E Patata che fa? Patata che è uno che sta sempre per i fatti suoi, gli mette le mani al collo e quello intorno, lo vedi che è vero, tutti gli italiani tengono un coltello in tasca, si usa così laggiù. E Patata che è uno che sta sempre per i fatti suoi, con ste mani al collo quasi l'ammazza, e quello intorno il coltello, adesso tira fuori il coltello, lì si usa così. E Patata che è uno che sta sempre per i fatti suoi, non stacca più ste mani, e quello intorno il coltello, adesso tira fuori il coltello. E Patata con tutte le statuette rotte a terra molla il collo, si prende due schiaffi senza che va a rispondere stavolta. E se ne torna. E poi, a casa, seduto su una sedia, con tutte le statuette rotte da aggiustare che nessuno può più comprare, guarda. L'hai visto mai tu? Uno vecchio che piange. Ma è maschio. Camillo si chiama. Camillo. Non ci stanno un nome uguale in americano. Camille, no. Camille, no, non credo. Ma devi vederlo, Camillo. Il primo giorno a scuola stava sempre a fare sì con la testa. Perché quello Camillo capisce tutto. Diventerà ingegnere. No, ingegnere quello no. Medico sì, dentista, una cosa utile deve fare. Ma ora lavoro e soldi in più ci sarebbero. Puoi tornare. Cara figlia, sono tanti anni che sono qui. E dicevi che erano i soldi il problema. Sì, i soldi, ma non solo. Sì, ma io sono qua. Puoi tornare. Ma ora sono qui. Non mi trovo in Italia adesso. Ma che dici? Cara figlia, sono cambiate tante cose. Non so che dire a quelli che ho lasciato lì. Ma niente, non devi dire niente. Ora io ho i soldi e tu puoi tornare. Ma ora sono qui, sono tanti anni che sono qui. Lì? Lì? E stai bene lì? Non lo so, ma sono qui. Tengo la casa, ho messo i repatate. E patate che fa lì? E io? Io che faccio? La madre. Cara ma, non ti voglio scrivere più. Ma non ti voglio vedere più. Ma non ti voglio più. Ma cancella quello che t'ho scritto. Non è vero. Cara ma, al lavoro ci sta uno che lavora con me e col quale parliamo. Eppure lui nella famiglia sua tiene gente lontana a lavorare. In Germania stanno loro. Lui però tiene una specie di fissazione parlare dei genitori suoi. Tutti i giorni ne parla. Lavoriamo e ne parla, smettiamo e ne parla. Poi ride, poi piange. È matto. Dice che i genitori suoi sono fortunati a stare in Germania. Dice io sono contento. E poi lo vedi che piange. È matto. E al lavoro nessuno ci parla più. Soltanto io che mi interessa a me parlare con qualcuno. Dice che in Germania si guadagna bene, ma poiché si lavora tanto in fabbrica, uno quei soldi poi non sa quando spenderli. Che roba, eh? O non ti pagano o non hai tempo. Cara ma, sto collega dice che la Germania è bella, che là non si ruba come qua, e lui però tiene paura di perdere sto posto in fabbrica che tiene. E io a volte ci penso, ma perché siamo costretti a fa tutta sta fatica? Ave tutta sta paura per star legati a un lavoro di fabbrica di merda. Ma tu a rivoltarti mai? Ma tu ti sembra tutto così normale? Cara ma, vedi che bella questa lettera che ha ricevuto sto collega mio da un gruppo di gente emigrante in Germania che si è riunito. Ma vedi che bella, una lettera che uno la smette di piangersi addosso. Cari Talianischer, vi scriviamo una lettera elegante di saluto da connazionali vostri che ora non più vivono nell'affezionata e assai vagata Talia, ma che trasferirono le loro spoglie viventi in un paese grande e freddo, dal nome originale di Tedeschia. La Talia è in un paese dove parecchi lavorieri sono oppressi e dove i patroni li tengono come ai servi. Ci stanno lavorieri che si ribellano iettando le macchine delle fabbriche alle cascate, lavorieri che fanno silenzio e supportano fino alla morte, e altri che vanno lasciando la Talia per emigrazione speranzosa. Nella Talia, li lavorieri nessuno li aiuta, anche li preti. Invece di dire che la Talia è una repubblica comandata da Dio che ha fatti uomini uguali, ce vanno rompendo i guglioni. Noi, che elegantemente e affezionatamente vi scriviamo, furomo quelli che ceneiremo i migranti. Ma aprì il varco a questa usanza, nu signore. Nu giorno, partì ignaro verso lo nord, verso la Tedeschia, e lì giunto ebbe conoscenza de una frau, bella, bionda, di moneta gonfia. E dopo sta conoscenza, entrambi si misero a foghelnare per bene, giorno e notte, notte e giorno, fino a che fecero il figlio aspirato e s'ammaritarono. Lu signore, desideroso poi di rinverdire le vecchie conoscenze italiane, rimpatriò per qualche tempo nel suo paese, il paese di Valva. Ivi ci arrivò con una macchina grande e lunga, metri e chilometri, coi pezzi d'oro sparsi come corredo e prole bionde ed elegante assai, tanto che noi tutti spalancammo gli occhi innanzi a sta rilucenza e, rassicurati dalla promessa di un posto di lavorio pieno di moneta, ci siamo posizionati dentro a sta macchina tutti appiccicati per un viaggio verso il grande freddo, per porre così un miglioramento alla vita e sperando soprattutto che più nessun patrone ci avesse a rompere i guglioni. Quivi elegantemente salutiamo le vostre reminiscenze, augurandovi un futuro pieno di speranza e lavoro. Con affetto, i vostri compatrioti germanesi. Cara figlia, una cosa che voglio sempre qua è il pesce. Ci faccio una malattia. Col pesce non si scherza, eh. Se il pesce è buono, lo mangi, se no, neanche guardarlo devi. Una volta che vieni, te ne compro assai. Cara figlia, ti scrivo una lettera, ti scrivo che spero che vai a leggere presto. So giorni che tengono poche malessere e sta gamba mi fa male. Tengono poche malessere e sto a letto. Cara figlia, sono stanca. Ma dirti che triste sono, no. Mangiare ho mangiato, non solo quello. È già tanto. Cara figlia, mi fa ancora male sta gamba. Niente, insomma, ti scrivo per dirti che ho sempre parlato di te, a tutti. Di che studiasti e tutto. Del lavoro che fai e tutto. Di sto Camillo, sto nipote mio e tutto. Eppure che non ci fossimo viste tanto, ho sempre parlato di te, a tutti. E poi a dirlo come sei. Come sei tu ora, che sei più vecchia, lo so dire. Pure caso anni che non te vedo, come sei lo so dire. Un po' sei tu, sei. Un po' come me, sei. È chiaro, non ci vuole tanto, con o senza distanza. So dirlo a tutti, se me lo chiedono come sei. Bella, sicuro che sei sempre bella. Ma tu quel giorno che sei morta, che lì stai fatto? Speriamo che quella che sto facendo io va bene. Questa cosa che quando uno muore fa la lista delle cose che si vuole portare dall'altra parte è buona, ma non è facile. Ti vai dimenticando tutto in certi momenti. Ma che tutti i parenti nostri andando a morire hanno fatto una lista, pure loro? Che è un'usanza familiare? È bella, A organizzarsi prima, però. Oh, ma sono anni, E l'ultima volta che sei venuta era... Che anno era? C'ho tutto. Ho preso tutto. Te l'ho preso il pesce. Oh, ma... Però io mo che ci vediamo sono contenta. E spero che c'è qualcosa dopo. Spero che ci sei. Spero che mi riconosci. Credo di sì. Spero che non si sente troppa puzza di pesce quando arrivo. Credo di no. È fresco sto pesce. Fresco assai. Arrivo. San Michele, sponda vecchino d'amore. Oh, viva, viva, nostro.